Buongiorno a tutti. Ora, nel corso con l'El Torah, iniziamo un nuovo discorso di Hasidut per prepararci al dono della Torah. Il dono della Torah che avviene di nuovo durante la festa di Shavuot, l'anniversario del primo dono della Torah, la prima volta che abbiamo ricevuto la Torah. E se l'abbiamo già ricevuta, perché ci dobbiamo preparare a ririceverla di nuovo? Perché effettivamente, HaKadosh Baruch Hu continuamente ci dà la Torah e quando soprattutto arriva il giorno dell'anniversario del dono della Torah, allora è come se a livello spirituale si ripetesse tutto ciò che è avvenuto la prima volta e noi dovremmo cercare di entrare un pochino in quella realtà per in qualche maniera aprirci, aprire il nostro animo, aprire la nostra mente, aprire il nostro cuore verso ciò che viene rivelato e ciò che viene dato a noi. E questo discorso di Hasidut è tratto dal libro Likutei Torah, che è una raccolta di discorsi di Hasidut, soprattutto del Alter Rebbe, che è lo stesso autore del Tanya e dello Shulchan Aruch HaRav, e si sofferma su un famoso Midrash che parla del Monte Sinai. Perché è stato scelto proprio il Monte Sinai? Cosa possiamo imparare dalla scelta di questo monte qui? Vediamo di cosa si tratta. Faremo delle citazioni, poi faremo degli approfondimenti. Il discorso inizia semplicemente indicando il tema sul quale ci si soffermerà. Inyan shenitna ha-Torah al Har Sinai Davka. Il concetto per il quale la Torah è stata data proprio appositamente precisamente sul monte Sinai. Perché proprio il monte Sinai? Velo al Har Tavor, ve Hermon, ve Carmel, e non su altri monti importanti come appunto questi citati, il Tavor, il Hermon o il Carmel. Che come appunto vi ho anticipato, il Midrash dice, Shebau Gam Ken, vennero, tra virgolette, si presentarono anche questi monti per proporre che la Torah, che siano loro, o ognuno di loro voleva che la Torah sia data su di essa, su di esso. Shebau Gam Ken, che sono anche venuti, si sono presentati, Shetinaten HaTorah Alehem. Di cosa stiamo parlando che il monte si propone e si presenta? Allora, c'è appunto un Midrash in varie fonti molto diffuso che adesso citeremo. Ukmoshe Katuv Betargum Yonatan, Beshoftim Siman Hei, nella traduzione aramaica dei profeti che si chiama Targum Yonatan, a differenza di Targum Onkelos, che è diverso, Targum Yonatan cita moltissimi Midrashim, nel libro di Shofetim, il libro dei giudici, nel quinto capitolo troviamo il canto di Devorah. Cos'è il canto di Devorah? Deborah, era in un certo momento la giudice del Am Israel. In quell'epoca il termine giudice indicava proprio il Shofet, il capo di Am Israel. Era prima del periodo dei re, ancora non erano stati nominati re in Israele. Il primo dei giudici, diciamo così, è considerato Yoshua, il primo che era il capo degli ebrei quando sono entrati in Eretz Israel. E nel corso del tempo una delle figure che rientravano in questo ruolo era Devorah. E adesso non racconto tutta la storia, ognuno può documentarsi la storia di Devorah, ma in un certo momento c'è stato un grande pericolo dal punto di vista della sicurezza, un problema di terrorismo e di guerre e di battaglia, e c'è stata una salvezza miracolosa. E Devorah fece poi un canto di lode e di ringraziamento nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, che ringrazia e loda appunto per questo grande miracolo. E vi consiglio anche di andarlo a vedere perché è estremamente suggestivo, bello e profondo. Tra le varie cose che sono scritte nel libro di Shofetim, qui nel canto di Vorà, al Passuk, il versetto Harim Naslu, i monti si sono sciolti davanti alla potenza di HaKadosh Baruch Hu, è come se anche i monti, cioè qualcosa di molto potente, si sciogliesse davanti alla sua avanzata, diciamo così. Ok? Quindi usa questo termine, i monti si sono sciolti. Il Targum Yonatan, appunto, usa questa metafora qui allargandola ancora di più verso il momento del dono della Torah. Qual è di cosa parla? Lui dice, cita appunto questi Midrashim di cui parlavamo prima, che i vari monti, Tavor, Hermon, Carmel, lottarono tra di loro nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu voleva donare la Torah e dicevano: ognuno su di me si dovrà posare la Shekinah, la presenza divina. Io sono degno di essere l'oste, diciamo, di questo evento, eccetera. HaKadosh Baruch Hu invece sceglie, dice sempre il Midrash, è sempre citato nel Targum Yonatan, in questo Targum, in questa spiegazione aramaica del profeta, e dice invece la Shekinah, la presenza divina, si posa e riposa sul monte Sinai, che è il più debole e il più basso dei monti. E solo lì HaKadosh Baruch Hu fa vedere la sua presenza nella forma di quel fumo che sale, eccetera, come descritto nella Torah. E dice: io non sono interessato a dare la Torah su questi monti presuntuosi, alti e grandi, bensì sul monte Sinai, che è basso ed è più basso di tutti gli altri monti. Questo è scritto nel Midrash e citato appunto nel Targum Yonatan. E cosa vuole indicare il Midrash con questo? Cos'è, una favola per raccontare una storia che è accaduta con i monti? Il Midrash con questo vuole chiaramente mandare un messaggio a noi che riceviamo la Torah. Il Midrash vorrebbe proporci una metodica per come bisogna ricevere la Torah e come si può essere degni di essere osti noi della presenza della Shekinah nella forma della Torah dentro di noi. E il messaggio è estremamente chiaro. In questo contesto, quando parliamo di alti e bassi, è ovvio, appunto, come vediamo, Vehainu, e cioè, Sheinyan, Hagavhut, Shel Tavor veHermon, quando parliamo dell'altezza dei monti, degli altri monti, Tavor e Hermon, che sono monti alti, Zeu Inyan Hagadlut, indica nell'uomo la sua grandezza, la sua presunzione. Se magbia et atzmo begassut, qualora la persona si eleva, ma non si eleva in maniera altruistica, bensì nel senso negativo, begassut, in maniera rozza, in maniera grezza, in maniera base, ponendo la propria importanza davanti all'importanza degli altri. Vehagassut hu shoresh kol hara. E questo tipo di essere rozzi, diciamo così, è la radice, Shoresh, la radice di Kol Ra, di ogni male. Questa è la radice di ogni male. Mentre invece, Veikara Torah, la parte più essenziale di come ricevere ed affrontare la Torah, Hu Liyot Bibchinat Bitul, è essere il contrario della presunzione. Si chiama nella mistica bitul. Bitul significa annullamento. Annullamento di che cosa? Annullamento del proprio io. E qui lo lega a un versetto che sembra parlare di altro, ma in realtà a livello profondo vedremo subito il legame. Qual è il versetto? È scritto Lo Techallelu. L'abbiamo letto poco fa nella Parashah. Lot echallelu et shem kochi, il verso dice, e cioè non profanare il mio nome sacro, il mio santo nome. Cosa vuol dire non profanarlo? Quello che si chiama chillul Hashem, il profanare il nome di Dio. E ci sono molti aspetti a questa mitzvah negativa. Un aspetto è proprio letteralmente dire il nome di Dio in maniera profana. Un altro aspetto è profanare il nome di Dio attraverso il proprio comportamento non idoneo, e cioè visto che ognuno di noi porta, tra virgolette, trasporta su di sé il nome di Dio, rappresenta in un certo modo HaKadosh Baruch Hu, nel momento in cui non ci si comporta in una maniera giusta, ci si comporta male o si sbaglia, allora è come se si profanasse il nome di Dio. Quando noi eravamo bambini, allora i nostri genitori ci dicevano: non fare così, che stai facendo un chilul Hashem, stai facendo una profanazione del nome di Dio. Se la gente vede che tu, che porti la kippah, che rappresenti l'ebraismo, rappresenti HaKadosh Baruch Hu, ti comporti in una maniera che non è giusta, non è degna, allora è come se profanassi il nome di Dio. Questo è uno dei modi in cui si esprime questo divieto qui. Ma qui affrontiamo un aspetto più profondo del concetto lo techallelu, non profanare. Cosa intendiamo dire qui? Non prendiamo la parola techallelu nel senso appunto letterale di profanare, bensì lo leghiamo alla parola halal. Cosa vuol dire halal? Halal in ebraico significa un vuoto. Allora, lo techallelu, Di nuovo vuoto, non creare un vuoto. Cosa vuol non dire dico non... per niente. Cosa vuol dire non creare un vuoto? Di cosa stiamo parlando? Allora, è spiegato in un altro discorso hasidico, non è allungato qui, però vi cito due righe di quello che lo stesso Alter Rebbe spiega in un altro suo discorso riguardo a questo non creare un vuoto. Allora, in generale, abbiamo detto che l'importante nel proprio comportamento è il bitul. Il cercare di annullare il proprio io, annullare il proprio ego nei confronti della Torah, nei confronti della volontà di HaKadosh Baruch Hu. Ora, vorrei citare appunto una riga. Solo un momento. Qualora noi ci comportassimo in una maniera che non va bene, allora noi è come se creassimo un vuoto nella volontà di HaKadosh Baruch Hu, nella presenza di HaKadosh Baruch Hu. Come se noi creassimo un vuoto nella presenza di HaKadosh Baruch Hu. Buongiorno, Buongiorno, benvenuti. provavamo a vedere reagire insieme, tutto a posto, sono partiti, abbiamo una Sì, reazione. tutto a posto. No, perché era vincolante al fatto che noi ci mettessimo in libertà, che sono finite le esigenze, sana o zoo, tutto a Sì, posto. è tutto a posto, grazie davvero. Grazie mille. Buona giornata, grazie. Ok, scusate. Allora, Rientro qua col pullman. no, vanno a casa poi. Ah, Sì, ok, perfetto, grazie grazie. mille. Scusate. Allora, creare un vuoto significa se c'è la presenza di HaKadosh Baruch Hu, qualora ci fosse la presunzione da parte nostra, e presunzione significa qualsiasi cosa che va contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu, in quel momento è come se noi creassimo un vuoto della presenza di HaKadosh Baruch Hu. Quindi lo techallelu, non profanare, significa anche non creare un halal, un vuoto, cioè non cacciare via HaKadosh Baruch Hu. La Gemara dice nel trattato di Sotà, pagina 5 e 6 di Sotà, allunga moltissimo tutto il discorso del problema della presunzione, della gava, del vantarsi, del considerarsi importante, eccetera, nei confronti degli altri. E dice anche che nel momento in cui una persona è presuntuosa, cosa fa? Caccia via la presenza di HaKadosh Baruch Hu. C'è scritto come se HaKadosh Baruch Hu dicesse: En ani vahu yecholim ladur. Io e lui non possiamo essere presenti insieme. È come dire: se ci sono due importanti, allora uno deve decidere, o sono io o sei te. Un bicchiere Non possiamo in un bicchiere d'acqua avere d'acqua due insieme, o uno o l'altro. Allora, Lo techallelu, non profanare, assume questo significato più profondo, più il significato interiore delle cose che leggiamo, studiamo nella Hasidut, e cioè non creare un halal, non creare un vuoto, non cacciare via la presenza di HaKadosh Baruch Hu attraverso che cosa? Attraverso la gassuta, attraverso la tua grandezza e la tua, e il tuo comportamento, diciamo, troppo presuntuoso e troppo base, troppo non raffinato, non raffinato abbastanza. Allora qui citiamo appunto in questo contesto ciò che è detto nella Gemara, nel secondo paragrafo. Zeu she'amru, questo è quanto intendevano i maestri quando hanno detto, nel trattato di Eiruvin, si parla lì di diversi aspetti del dono della Torah e si fa riferimento al fatto che la Torah è stata data nel deserto. È scritto nella Torah, nella parasha di Chukat, è scritto Mimidbar Matana, Umimatana Nachaliel. Cioè si parla delle tappe che gli ebrei fecero durante il percorso, il viaggio che fecero nel deserto, e si fa riferimento che viaggiarono da qui e si accamparono in luogo X, e poi viaggiarono dal luogo X e si accamparono in luogo Y, eccetera, eccetera. E si fa riferimento a dei luoghi che è difficile individuare dove siano, e si tratta invece spesso, come anche nel libro di Devarim, una cosa simile, si tratta invece di delle parole che indicano delle situazioni più che dei luoghi specifici, oppure dei luoghi ma indicati con delle parole che indicano appunto cosa è accaduto in quel luogo. Allora uno dei luoghi viene nominato come Matanà. Matanà significa che cosa? Un dono, un regalo. Matanà è un riferimento al luogo in cui abbiamo ricevuto la Torah. Ok? Allora però c'è scritto, da dove siamo arrivati verso Matanà? Matanà è il luogo in cui abbiamo ricevuto il dono. Quale fu il luogo da cui siamo partiti per arrivare, per giungere a Matanà, a ricevere la Torah, il dono? Il luogo viene chiamato un Mimidbar dal deserto. Un Mimidbar Matanà. Dal Midbar, dal deserto, siamo giunti a Matanà. Quindi commenta un maestro nel Talmud, che tra l'altro il maestro si chiama Matanà, il maestro dice che per giungere alla ricevere la Torah bisogna essere come un deserto, un Mimidbar Matanà. Se la persona si... abbiamo la citazione. In Meisim Adam Atzmo Kamidbar. Qualora la persona si rende a se stessa come un deserto, e cioè Sheakol Dashinbo, sul quale tutti calpestano, nel deserto non devi avere diritto di, come dire, come si chiama il diritto di calpestare, il diritto di proprietà o di qualsiasi tipo. Il deserto è di tutti e di nessuno. Ognuno può calpestarlo, e il deserto poi è molto umile, non è qualcosa di molto bello, e fiorente, eccetera. Allora, la persona che si rende come se fosse un deserto sul quale tutti calpestano, allora cosa succede? Matanà riceve il dono della Torah, e cioè la Gemara dice, qui non sono citate le seguenti parole, però Talmudò mitkayem beyadò, ciò che lui studia si mantiene nella sua persona, nella sua memoria e nel suo modo di comportarsi. Uno potrebbe studiare e poi dopo aver finito di studiare come se non avesse studiato, invece un altro studia e si cambia. Lo studio si mantiene dentro di lui o lei. Allora il Talmud dice, qual è la formula? Come bisogna fare? Meisim atzmo mimidbar. Prima bisogna essere un deserto, cioè bisogna diventare molto umili, e poi quello che studi e capisci rimane davvero una parte del tuo io. Cioè tu, se svuoti la tua persona dal tuo io presuntuoso, diciamo così, allora si può riempire con l'io che la Torah ti consiglia e ti indica. E quindi Rashi spiega anche, Piresh Rashi, cosa vuol dire che la persona si fa come se fosse, si rende un deserto, cioè enlo gassut. Rashi usa proprio questo termine che abbiamo detto prima, del rozzo, del non raffinato. Toglie, la persona deve lavorare su di sé per togliere questi aspetti dal proprio io, dal proprio interno. Allora, dice Rashi, Torah nitenalo bematana. Allora la Torah gli viene regalata come un dono che rimane appunto suo, come diceva la Gemara, si mantiene nella sua persona. E questa è una cosa che noi diciamo anche nella Tefilah. Alla fine dell'Amidah, adesso citeremo, quando abbiamo già concluso tutte le Berachot dell'Amidah e abbiamo tutte le 18, 19 benedizioni abbiamo già concluse, prima di fare i tre passi indietro, se shalom bim romav, eccetera, cosa che c'è una Tefilah, Elokai Netzor, dove noi tra l'altro diciamo Venafshi che afar la coltie, che la mia persona, il mio animo, possa essere come la terra, bassa come la terra, davanti a tutti, la coltie. E poi chiediamo la richiesta nella Tefilah, Veazai davka petach libi betoratecha. Apri il mio cuore per la tua Torah. Sembrano due richieste diverse. Una richiesta è che io possa essere, che io potessi essere umile, venafshi che afar, che il mio animo possa essere umile, cioè come la terra, cioè basso, umile. E poi l'altra richiesta è apri il mio cuore verso la Torah. In realtà è la stessa richiesta. Qualora il mio cuore sarà umile, allora sarà aperto verso la Torah. Non può esserci l'uno senza l'altro. E quindi torniamo al discorso che facevamo dal Midrash all'inizio. Velachen itna al Har Sinai. Per questo la Torah è stata data proprio sul monte Sinai, de Machich in aramaico, cioè quello basso, citando sempre quel Targum, Shehu inyan ha-shiflut, che rappresenta nella persona l'essersi, il sentirsi basso, il sentirsi umile, she'eino magbia et atzmo, che la persona non si eleva e non si considera più importante o più intelligente o più bravo delle altre persone. E quindi questo, il primo messaggio che la Torah ci vuole mandare nel momento in cui la Torah viene data sul monte Sinai, che è il monte umile, per dire, per ricevere questa matanà, perché la Torah trovi riposo dentro il nostro cuore, sia mantenuto dentro la nostra persona, quindi contribuisca a creare in noi una persona migliore, questo è solo se prima c'è l'umiltà. Allora la domanda che ci si pone è, vediamo appunto il terzo paragrafo, Achzarich lehavin, bisognerebbe allora cercare di capire, c'è qualcosa che ci sfugge, imken, se così fosse, lama hayashum har, perché serviva allora che la Torah sia data su un monte? In pianura. Sarebbe meglio darlo sulla pianura, o in una valle addirittura. Sharegam har sinai hu har al kolpanim. Anche il monte Sinai è comunque un monte basso, ma è comunque un monte. E il monte rappresenta l'elevatezza rispetto al livello normale. Shehu inyan hagba'a, il monte rappresenta l'elevatezza. Rakshei no gavoa kolkach, solamente non è così alto, ma è comunque un monte. È comunque una collina. Allora, se si vuole indicare il concetto dell'umiltà che è indicato nella struttura, nella posizione bassa, allora appunto è meglio la valle, è meglio la pianura. Sarebbe stato meglio forse, il messaggio sarebbe forse stato ancora più forte. Allora abbiamo capito il messaggio del fatto che il monte Sinai è il monte più basso, però se questo messaggio deve essere così forte, appunto forse sarebbe stato meglio la parte più bassa della topografia, la valle o la pianura. Allora effettivamente bisogna dire che c'è un messaggio anche nel fatto che si tratta sì di un monte. Non è tutto negativo. E questo approfondiremo la prossima volta, qual è invece il messaggio positivo che si trae dall'idea che il monte ci deve comunque essere, che la Torah è data su un monte, non sulla valle, non nella pianura, nonostante quanto abbiamo detto che il monte però deve essere basso, cioè che rappresenta l'umiltà. C'è anche il messaggio nel fatto che comunque è un'altura. Che messaggio c'è? Questo approfondiremo, se Dio vuole, la prossima puntata. Comunque, da quello che vedo,